Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono un interista incantatissimo. Io te la facevo un tiro, la palla che ti facevi il tiro io non girava mai, andava fisso e andava sempre allo stesso posto. Io la maggior parte delle colpe le do al presidente, perché non so, magari per il lavoro che fa con i fumi del gasolio si è rovinato il cervello. Tutti convocati di Carlo Genta. Pirlo cerca l'intesa con Lichtsteiner e lo schema della Juventus. Pogba si gira e la Juventus ha il vantaggio. È lo schema. Juventus 1, Lazio 0 al 23esimo, ha colpito Pogba, è entrato da pochissimo. My opinion, brilliant first half, high intensity, high quality, great movement, great football. Oh, it was great. I'm happy with the performance that I put on. My team came out here and we ran a great 4x1. So I'm just happy that we did what we did. I'm from the city where the stress, yeah, I slink real fast. And now I'm doing shows in Helsinki. I know what you're thinking, you're thinking. That 25 points are important. I feel great here in USA. I won the 3 races here, so that is important. Now we come back in Europe and we will try to continue that way. Ciao a tutti, ben ritrovati. Giorgio De Luca, oggi autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia, ci ritroviamo qui con voi 800240024 per condividere l'intimità, per condividere dei sogni. Stanotte ho sognato che la Juventus faceva la festa per il terzo scudetto negli spogliatoi dell'Olimpico, una festa estiva. Ho sognato una finale di Champions League tra Mourinho e Ancelotti, ma non ricordo bene chi allenava chi. Ho sognato che Ranieri batteva Cavani, che Marquez vinceva il mondiale al primo tentativo e poi faceva le linguacce a Valentino Rossi, che Bolt batteva Nadal a Wimbledon. Ho sognato anche questo, cosa ci volete fare? E ho sognato poi così, un sogno a luci rosse, le atlete russe che limonavano tra di loro in spiaggia sotto l'ombrellone davanti a un tramonto, mentre la Isinbayeva guardava stupita. Che cosa ci volete fare? Sono finito così, dopo un po' per spirito di servizio, vabbè, ma chi la racconto? Non per spirito di servizio, ma per una sana crisi di astinenza. Mi sono chiuso in casa nel weekend davanti alla TV. Ho visto talmente tanto sport da finire con le occhiaie, non per i sogni che vi ho raccontato. Il peggiore dei voyeur. Io ho l'impressione che con il nuovo canale Fox Sports, insomma, bisognerà starci attenti, bisognerà mettere un avviso, warning, usare con cautela, perché sennò, sai, i matrimoni che saltano. Allora, voce di Fox Sport e nostro amico storico, Nicola Ruggero. Ciao Nick. Buongiorno Carlo, buongiorno agli ascoltatori. Ho sentito anche te in questa orgia del weekend. Manchester United, dove Rooney fa il separato in casa, dove Moyes vince con le braccia levate alla prima di campionato con lo United, mentre poi Mourinho commosso davanti al tributo di Stamford Bridge. Beh, tutto bellissimo, ma non ti sto a raccontare che poi ho visto l'Olanda, ho visto la Spagna, ho visto la Germania su Sky, ho visto talmente tante cose che quasi non me le ricordo più, mi confondo un gol sull'altro. Ma credo che sia un rischio che si corre abbastanza facilmente, visto che questo canale praticamente ha quattro campionati straordinari, soprattutto in Premier League, ma aggiungerei anche la Ligue 1 e l'Eredivisie, che è il campionato olandese, che magari non è al livello degli altri, però ha dei nomi di sicuro fascino come l'Ajax, il Feyenoord, il PSV, che domani sera sarà rivale del Milan. Sono comunque squadre che hanno vinto nel loro passato la Coppa dei Campioni. Quindi credo che facilmente si farà quella confusione a cui accennavi tu. Il piacere evidentemente è stato l'accoglienza che è stata riservata a questo canale, che riguarda solo il calcio internazionale e direi che presenta il meglio del calcio, ma non soltanto il meglio del calcio dal punto di vista tecnico, ma soprattutto la bellezza di uno sport vissuto senza quell'angoscia che invece c'è in Italia. Cioè, certo, non so se si è fatto caso, abbiamo avuto già due giornate in Germania, in Francia, l'inizio in Liga, in Premier, e non si è sentito parlare di incidenti, di botte, di feriti, mentre in Italia già con le amichevoli, mi pare, a Varese, per Varese Catania, a Terni, per Ternana Roma, già si comincia a fare il conto dei feriti, degli arrestati. Sì, e anche delle curve chiuse, perché è notizia di oggi, quella della Lazio chiusa per una giornata dopo i cori razzisti. Una bella notizia, questa è una bellissima notizia. Cori razzisti a Pogba. Non ovviamente dei cori razzisti, ma una bellissima della chiusura, che è, certo. La curva di questi criminali è che vadano da un'altra parte, possibilmente in galera, a sfogare la loro arretratezza mentale, umana, culturale, eccetera, eccetera. Sì, comunque è notizia ufficiale, chiusa la curva domenica Lazio-Udinese, curva nord, vuota senza alcuno, spero senza striscioni, senza cose del genere, spero vuota totalmente. E poi vediamo il tassametro ha già cominciato a correre, no? Con ancora in estate, con, lo sai benissimo, quella storia del triangolare con il Sassuolo, Reggio Emilia, eccetera. Adesso non è ancora cominciato il campionato, ma lo cominciamo con una curva chiusa. 800 24 00 24, il numero verde. Ma poi, Nicola, io ho notato, anche guardando poi su altri schermi, ovviamente quelli della Rai, la Supercoppa italiana, nella quale la Juventus ha già, insomma, dettato le leggi per il prossimo campionato. Secondo me non ci sarà gara, non so cosa ne pensano gli ascoltatori, però ho notato anche una differenza quasi lessicale nelle telecronache. In quelle italiane si sta a vedere: arrivediamo se era fuori gioco, arrivediamo che cosa ha detto questo a quell'altro, ma c'è stata un'entrata dura e quello reagisce, questo no. Mi sembra ci sia, tra, non lo so, tu hai fatto entrambe le cose, calcio italiano e calcio internazionale, trovi questa differenza nel raccontare questi due sport? Guarda, io faccio mia una frase di Luca Vialli, faccio mia nel senso che me l'ha fatto notare Vialli, lui mi diceva: guarda a fine partita, una fine partita del campionato inglese, ci sarà ovviamente chi è contento, quelli che hanno vinto, chi ovviamente sarà meno felice, chi ha perso, però ti dà l'impressione che sia finita lì, cioè uno ha vinto e l'altro ha perso, punto. Poi mi ha detto: guarda invece due squadre, una partita italiana, anche chi ha vinto ha la faccia di chi è scampato alle forche caudine, e cioè sì, dice: ho vinto, meno male, quindi per una settimana posso respirare senza che mi spacchino, posso andare al cinema con mia moglie, posso andare in giro per la città senza che nessuno mi accusi di fare la bella vita. Ecco, la mia impressione è che all'italiano il calcio piaccia così, piaccia angusciato, piaccia, l'italiano vede una partita di calcio non per guardare una partita di calcio, ma perché poi c'è la mobione, c'è la polemica, c'è il palazzo, c'è l'arbitro, c'è il complotto, c'è tutto questo. È questo che è detestabile del calcio italiano, non è il livello di gioco, perché poi si vince, si perde, magari quest'anno, non so, la Juventus vince la Champions League, non ho idea, ma non è questo il problema, è un problema proprio di approccio a un evento che non è più sport, ma è un'altra faccenda. È angusciante, secondo me, che si deve vincere. Ma, Nick, tu lo sai, io lo noto e lo tocco con mano anche, insomma, parlando tutti i giorni, ed è la cosa che più mi fa piacere in assoluto con gli ascoltatori, che rinvito 800 24 00 24, perché sono sempre convocati. Io lo noto anche parlando con loro, diventa una questione esistenziale quasi, cioè diventa una questione di vita o di morte, qualcosa che incide sulla tua vita di ogni giorno, e questo fa male alla salute, ragazzi, questo fa male alla salute. Allora, invece, non fa male alla salute, mi pare, tornando al calcio inglese, quel minuto e mezzo, due minuti di tributo a Mourinho, che è uno che nel calcio italiano ci stava da Dio e che secondo me prima o poi tornerà. Però, insomma, lì in Inghilterra dice: sono tornato a casa, gioca ovviamente in un clima diverso, che non è forse per lui esattamente il più congeniale, per le ragioni di cui sopra. Però, insomma, quanto è successo ieri a Stamford Bridge è stato bello dal punto di vista sportivo, no? Sì, stiamo scoprendo un lato affettivo di Mourinho che ci era sconosciuto. Affettivo. A me il personaggio non piace per niente, l'ho sempre detto. Non mi piace il suo approccio allo sport, per tornare al discorso di prima, non mi piace uno che giustifichi le sue sconfitte con qualcosa di esterno ai suoi demeriti, ma è sempre colpa di qualcuno, salvo poi naturalmente dire che le vittorie sono merito suo, anche quando succedono gli stessi episodi, ma in quel caso a lui favorevoli. Mi fa piacere che scopra che evidentemente c'è anche dell'altro nel semplice conteggio numerico di un punteggio o di un risultato o di un campionato. C'è evidentemente un affetto che lui ha lasciato e che probabilmente gli rimane dentro. È una persona tutt'altro che stupida, e secondo me questo è un aggravante per i suoi comportamenti, perché secondo me se uno è stupido e si comporta male, ha in qualche modo la giustificazione del fatto di essere stupido. Siccome lui è intelligente e si comporta nella maniera peggiore che io ho visto, che io ricordo, su un campo di calcio, ecco, questa secondo me è un aggravante. Però evidentemente l'esperienza al Chelsea, ma la stessa l'Inter, gli hanno lasciato dei ricordi a cui poi non è refrattaria. Sì. Questo è il lato migliore del personaggio. Certo, però il fatto che faccia così presa sulla gente, non solo sul pubblico italiano, in positivo e negativo, ma anche su un pubblico mediamente più acculturato come quello inglese, insomma, a me un po' fa pensare, no? Sulla capacità di attecchire, pur nei suoi modi criticabili o comunque particolari o comunque estremi, è un personaggio che fa presa. E non mi sarei aspettato una cosa del genere da un pubblico come quello italiano, ma un tributo del genere dal pubblico inglese è stato qualcosa di strano, di particolare, di curioso, secondo me. Diciamo dal pubblico del Chelsea, ecco. Sì. Non so se il resto dell'Inghilterra è stato certo. L'obietta d'ora. No, certo. Che a Madrid non lo rimpiangono per niente. Tra l'altro, a proposito, è stato sostituito da un grande gentiluomo come Ancelotti, quindi a Madrid si sono accorti subito della differenza. Sì, ma Nick, però campionato spagnolo poca roba, adesso lasciami dire, campionato spagnolo un po' finto, No, il rischio del campionato spagnolo, e secondo me gli spagnoli prima o poi dovranno accorgersene, è che si rischia il campionato scozzese, cioè Celtic Rangers e poi niente altro, ovviamente su livelli più alti, per l'amor del cielo. Però è talmente siderale la distanza tra le prime due e il resto del gruppo che è difficile parlare di campionato. È un testa a testa, nella speranza per gli spagnoli che Real e Barcellona rimangono vicino il più possibile. L'anno scorso non è accaduto e il campionato si è deciso a ottobre e non è il massimo dell'entusiasmo. Ecco. No, non è il massimo. Poi Barcellona è iniziato con 7-0, Ancelotti ha fatto un po' più fatica, 2-1 sul Betis, ma siamo ai prodromi della stagione, mentre Neymar ancora in panchina. A proposito di qualcuno che insomma magari rischia di essere finto, non lo so, ancora non è una vera stella, vediamo se lo diventa. Ma la Juventus ha già vinto lo scudetto, Nicola? Beh, sicuramente supererò la Lazio. Vabbè, e se mettiamo che la Lazio è, non so, la quarta, quinta forza del campionato, fai tu due conti, insomma. Non so, io andrei a valutare con attenzione il Napoli, per quanto si è potuto capire in questo primo mese di amichevoli. Poi insomma non mi fido molto di preparazioni che oramai, anziché avvenire come si faceva una volta in deliziose colline con ruscelletti e verdi intorno, avvengono tra gli Stati Uniti e l'Estremo Oriente, insomma dove sostanzialmente ti paghi, quindi non mi fiderei troppo dei responsi di questo mese. Però certo il Napoli, che era già forte l'anno scorso, ha perso Cavani ma ci ha aggiunto Higuain, insomma più o meno parliamo della stessa cifra, ha aggiunto qualche elemento interessante. Io penso che il Napoli possa essere un rivale credibile. Napoli, regalaci un sogno di un campionato aperto. Napoli, sei tutti noi che non siamo della Juventus, o di tutti quelli che non sono della Juventus, perché io credo che le speranze siano nel Napoli. Non vedo la Fiorentina da corsa, la Roma è un bazar incomprensibile, il Milan secondo me non, insomma, vale terzo quarto posto, non di più, l'Inter boh, e il resto insomma. Io credo che il Napoli sia la vera competitor della Juventus. Senti Nick, io ti chiedo un attimo di pazienza dopo il traffico, ma prima per l'Atletica, però prima del traffico volevo farti una domanda a bruciapelo: ma questo aiaccio di Ravanelli che va a impastare il Paris Saint-Germain in casa sua nonostante il primo gol di Cavani? È la spiegazione del fatto che il calcio non è uno sport ma è un gioco. Statistica della partita: 36 tiri per il Paris Saint-Germain, uno dell'Ajaccio, punto gol finale 1-1. Nessun altro sport può accadere, quindi ecco, parliamo di un gioco e non di uno sport. Sì, certo, spiegazione perfetta. Traffico, poi Nicola Roggero su Usain Bolt. Ho sognato anche lui stanotte, ve l'ho detto prima. Ho detto pensare che mi potevate mancare, onestamente invece mi siete mancati. Tutti convocati. Tra un attimo che comincio a parlare con voi, ricomincio a parlare con voi, 800 24 00 24, con grande piacere. Ma prima volevo chiedere a Nicola Roggero se sotto il riflettore abbagliante di Bolt infinito, alla faccia di chi diceva ma si sta spegnendo, è in parabola discendente, non può più correre su certi tempi, il meglio l'ha già dato, e lui piazza 100-200 e staffetta tripletta per Usain con grandi tempi. Sotto questa luce abbagliante hai visto qualcos'altro ai mondiali di atletica? Sì, intanto lasciami dire che la grandezza di Bolt deriva proprio da questo. Parliamo di una 9,77 sui 100 con pioggia, sì, con vento leggermente contro, con un clima freddo che è il peggior nemico di uno sprinter. Parliamo di un 19,66 sui 200 e sembra di parlare di qualcosa di normalissimo. Quando io ricordo 17 anni fa, quando Michael Johnson batté il record, un'altra leggenda, Pietro Mennea, a proposito, bello quello che ha fatto la Federazione Italiana per ricordare Pietro sulla pista in cui lui vinse 200 Olimpiadi, ecco, sembrava un'impresa strepitosa. Oramai Bolt fa gli stessi tempi e si parla di qualcosa di normale, quindi questa è la grandezza di Usain Bolt. Ho visto delle belle cose, non sono d'accordo con chi parla di campionati di basso livello. Ieri, per esempio, abbiamo visto un Teddy Tango atterrare a 18,04, 18 metri nel triplo nella storia, li hanno fatti in tre in tutto, Jonathan Edwards, Kenny Harrison e adesso questo ragazzo francese che tra l'altro veniva da due anni di infortuni continui che ne avevano molto limitato. Ho visto uno strepitoso Bondarienko nell'alto con 2,41 metri, ho visto delle bellissime gare anche in pista, soprattutto i 400 metri di Merritt, ma perché no, i 400 ostacoli della E9 in campo femminile, e lasciatemi dire che ho visto qui da Piemontese, ho visto una strepitosa Straneo che fa 2:25 sulla maratona, 37 anni, praticamente in testa al primo, sì, metro fino al 41esimo metro, quando poi ha ceduto a chi evidentemente ha più talento di lei e conquista uno strepito d'argento. Ma a mio parere sono dei grandi campionati in un posto sbagliato, perché la Russia di fatto non ha passione per l'atletica e soprattutto non mi piacciono per niente le leggi liberticide russe, e mi spiace moltissimo che si continua ad assegnare manifestazioni a chi evidentemente non rispetta l'opinione e la libertà degli altri. Grazie Nick. Grazie a voi. Tutto. A prestissimo. Grazie a Nicola Roggero. Vucinic ancora per gli Steiner, Marchetti, Pogba, Marchetti, non è finita e c'è la rete di Tevez, anche lui partecipa alla festa della Juventus. Ma l'Inter cosa ha fatto? Domanda Amedeo, messaggi 349-238-6666, c'è chi ha sognato che cambiavo radio, invece no, sono ancora qui, ai voi, c'è chi ha sognato che il suo amico Valentino si ritiri, che bello, ma perché volete far ritirare Valentino Rossi, che ieri ha fatto una rimonta straordinaria alla fine e mi ha fatto divertire come un bambino negli ultimi giri con quel sorpasso alla penultima curva, alla faccia di chi scrive questo. No, perché vogliamo farlo ritirare Valentino Rossi? Perché? Marquez è il più forte, la nuova stella, ma Valentino finché ne ha, giusto che rimanga su quella moto, non ha fatto poi così tanto peggio rispetto a Lorenzo, che correrà fino alla fine per un titolo che secondo me Marquez ha già in tasca, e in questo supererà Valentino Rossi, perché al primo tentativo con la classe regina vincerà questo titolo come Valentino Rossi non è riuscito a fare, l'ha vinto al secondo anno. 800 24 00 24, Francesco, provincia di Viterbo, e poi andiamo a Cesena, andiamo a Salerno, andiamo ad Ancona, giro d'Italia come al solito. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Allora, sento un imbombo in telefono. Sento un imbombo, non so perché, provi a abbassare la radio. Non... No, è spenta la radio, comunque io vabbè. Allora, prima di tutto non fare più senti i gol di ieri sera, mi sono abbassati ieri sera, quindi... Sono abbassati ieri basta così? Basta, sì. Allora, la Juve è sicura. Stranamente poi, me ne vorranno gli amici juventini, però stranamente non ha rubato, ha vinto in maniera molto, molto sportiva. Sì, ha vinto perché ha giocato a pallone, insomma. Beh, ha vinto allora, perché ha giocatori più forti, ha vinto perché la Lazio ha fatto un primo tempo normale e un secondo tempo da matti. sì, con Petkovic che ha detto dopo il secondo gol abbiamo mollato, in parte è vero. Insomma, la Lazio si è trovata sotto praticamente a freddo, perché fino a quel punto la partita era stata molto equilibrata, però non giochi con una squadra che ha così tanta qualità, fa parte del gioco. Senta, ma lei cosa ne pensa della chiusura della curva della Lazio? Ecco, infatti io adesso dirò qualcosa forse poco allineata a quello che dicevate voi. Ieri ero in curva. Allora, i buci sono stati, non ammetto niente, non dico niente, di contrario, perché è vero, però non vedo una cosa razzista. Guardate, io allo stadio ci vado, proprio sempre in tribuna o nei distinti. Ieri non c'è stata una cosa razzista, sicuramente. E che cos'è? Guardi, ce ne sono stati dei cori anche contro Lichtsteiner, che è un ex... Sì. Che uno svizzero a tutto, se può dirmi che l'Italia è razzista nei confronti di Ma che cori ci sono stati contro Lichtsteiner? Ci sono stati, cose irripetibili per radio, ma sì, sono normali in tutte le curve. Chiunque ha frequentato una curva, penso che... E allora perché a Lichtsteiner, che è svizzero, gli si insultano gli affetti, che è cosa volgarissima, invece a Pogba, Samoa e Ogbonna si insulta il colore della pelle, che è una cosa molto più meschina. Giocatori di colore come Candreva, Calanda, Diaz, Nazzi, Conco, che ieri purtroppo non ha giocato, forse era una storia diversa, però ecco, io in alcune partite sentite per radio e in televisione da altre squadre ho sentito molto, ma molto di peggio, e tante, ma non dico che sia sbagliato chiudere la Lazio, spero che lo stesso metro sia utilizzato per altre curve. Ah certo, ma questo io lo do per scontato, perché se cominciamo su questo abbrivio, continueremo su questo abbrivio. Un solo bu, un solo coro e la curva sta a casa. Questa è la mia posizione. Detto questo, i giocatori devono fare i giocatori, perché di gente che va via dal campo, non spero di non vederne più, perché devono comportarsi da professionisti, però io spero che chi deve invece prendere decisioni di questo tipo, non accetto il fatto che non sono cori razzisti e si insultano anche gli altri, perché questo discorso non lo accetto, perché l'insulto a sfondo razziale, e non stiamo a raccontarci delle palle, sappiamo benissimo qual è, quindi sappiamo benissimo il senso che sta sotto quegli ululati, quei latrati, e allora la curva sta a casa. È successo ora con la Lazio in maniera ineccepibile, io sono certo che succederà anche con qualunque altra curva italiana si renda protagonista di queste cose. Quindi partiamo con una curva chiusa, pronti via 0-1, così comincia il campionato italiano. Salvatore, provincia di Forlì Cesena, buongiorno. Buongiorno, salve dottor Gente, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un tifoso del Napoli e vivo lontano dalla mia città, quindi ho la possibilità di vedere la mia squadra solo in trasferta, e in 20 anni di trasferte ho subito una quantità di cori razzisti da parte di tutte le curve d'Italia, anzi tutti gli stadi d'Italia eccetto Genova, che sapere che neanche 12 ore dopo la finale di Coppa Italia è stata già decretata la chiusura della curva della Lazio per cori razzisti, non è che mi dà fastidio perché è giusto così, ma mi fa sorridere, perché lo stadio intero della Juve dovrebbe essere chiuso vita natural durante. E vediamo, vita natural durante, e vediamo, della Juve, del Milan, dell'Inter, sì. Mi sembra un atteggiamento, cioè come se ci fossero dei razzismi più diciamo di Serie A e di No, ma lei l'aveva detto, insomma, tra gli altri anche Maradona, questo è corretto, perché... Insomma, si passa da Giulietta Nazzoccola in giù, no? E sappiamo come la storia del calcio italiano sia piena di queste porcate. Io mi auguro che non ci sia insomma, poi stiamo parlando di cose volgarissime, stiamo facendo la categoria, la classifica degli insulti e stiamo pesandoli. Che schifo. Allora, se diciamo il razzismo non ha più diritto di cittadinanza negli stadi perché vogliamo usare il pugno duro, facciamolo in ogni caso e nei confronti di tutti. Questo è ineccepibile, secondo me. Bruno Salerno, buongiorno. Sì, ma non è che parliamo oggi, stiamo a parlare solo di queste cose, perché sennò, insomma, già ho passato una nottataccia. Dica. Buongiorno dottor Zetta. Niente, io volevo intervenire in merito al fatto che a noi italiani piace la polemica. però credo che l'educazione parta dall'alto. Se ci vengono forniti dei programmi televisivi da Sky in giù, dove dopo la partita c'è una trasmissione con due ore di moviole guardate da 34 angolazioni, se il fallo non fallo, scritto delle parole, alla fine noi guardiamo quello che ci Bruno, non guardiamo quello che ci fanno vedere, guardiamo quello che vogliamo, perché chi siamo, mi scusi, non abbiamo la possibilità di cambiare canale o di andare a fare un giro. Non è vero che guardiamo e ascoltiamo quello che ci danno, perché sennò avremmo un problema. Se veramente fossimo schiavi in questo modo, avremmo almeno un problema. Invece non ce n'è come cambiare canale, stazione o quello che volete, o come scegliersi le letture. Non trova, cioè non accetto questo discorso. Se tutto l'arco delle TV ci presenta questo tipo di programma, alla fine bisogna solo spegnere, ecco. Va bene, spegniamo, guardiamo, cioè il calcio è calcio, no? Si può guardarlo col volume, senza volume, tanto è sempre la partita è la partita. Se quello che succede prima o dopo non ci va, basta cambiare. Quindi non è vero che siamo come loro ci vogliono, perché ripeto, allora ribelliamoci. Stefano da Ancona. Buongiorno. Grazie. Non volevo ritornare sul discorso della curva, perché avevo chiamato per quello. C'è una primissima cosa invece di dirla, nel senso che dare sempre importanza a tutte queste cose, soprattutto adesso, già che con la prima giornata già chiudiamo una curva, non la finiamo più. Allora andiamo avanti, non finiamola più, vediamo chi vince. Sì, no? Io ho 40 anni e ho giocato, ho visto tantissime partite, l'insulto all'arbitro, al portiere, al giocatore, non vedo tutta questa differenza con un bu a un giocatore di colore. Siamo sempre troppo sul pesante. No, io ce lo vedo, perché io credo che siamo sempre qui a pesare gli insulti. Io credo che l'insulto a sfondo razziale per il colore della pelle in qualsiasi sport, in qualsiasi contesto, sia quanto di peggiore. Dare 4 gol a Roma nello stadio della Lazio, poteva succedere di tutto. Perché dobbiamo arrenderci a questo poteva succedere di tutto, e il buono nell'insulto razziale non è poi così pesante, visto che tanto siamo abituati a sentire ogni possibile schifezza sonora dentro agli stadi? Perché allora vale la pena di cominciare questa, non voglio usare il termine battaglia, guerra santa, non voglio usare niente di bellico, questa, non voglio usare crociata, vale la pena di cominciare questa, di inaugurare questa linea di tendenza. Benissimo, inauguriamola, andiamo avanti così, senza dargli troppa enfasi o troppo peso. C'è chi deve valutare e giudicare, benissimo, si sentono insulti o cose inaccettabili dalle tribune, la curva sta a casa, punto. 800240024, a dopo. Sono convocato anch'io e vengo in ritiro per forza. Tutti convocati. 800240024, eccoci qui. Siete tutti convocati come sempre. Vi ricordo, nel weekend, come sapete, comincia anche il campionato italiano, giusto per aumentare le possibilità televisive in un weekend che personalmente mi ha mandato al manicomio, complice la mia crisi di astinenza, e quindi mi ha portato a guardare davvero tutto, dal motomondiale all'atletica, al basket, a tutte le partite che passavano per la televisione. Non so come sia andato il vostro weekend, certamente meglio del mio, anche se c'è già chi dice quest'inverno nei weekend di pioggia so cosa fare. attenti perché quel canale Fox Sport merita un warning. Siamo qui a pesare e misurare gli insulti, ragazzi, ma non lo so se è peggio un giocatore di colore oppure Vesuvio brucia tutti i napoletani o figlio di puttana questo a quell'altro. Sinceramente sono cose disgustose star qui a stare qui a pesare, insomma, il letame, quale puzza di più, quale puzza di meno, non lo so, ma secondo me l'insulto razziale non è contemplato nella categoria. Se poi volete un giorno facciamo la graduatoria degli insulti, magari in mia assenza. Ecco, facciamo così, in mia assenza mandateci via mail o su Facebook o dove volete una graduatoria degli insulti dei tavoli della legge. Ma che schifo, secondo me l'insulto razziale è inaccettabile, senza dare troppa enfasi alla questione. Ripeto, si sentono insulti di questo tipo, curva chiusa e state zitti, basta, non c'è molto altro da aggiungere. Silvia Milano, buongiorno. Sì, Silvia Milano, buongiorno. Niente, perché Silvia da Milano aveva di meglio da fare, speriamo che torni. Allora, vediamo, sentiamo qualcosa, cosa dite? Conte dopo la partita? Cosa aveva da dire Conte dopo che ha vinto 4-0? Ha qualcosa da dire? Adesso godiamoci questa vittoria, poi sanno benissimo che alla ripresa sarà un martellamento continuo di nuovo, perché oggi gli stimoli e le motivazioni venivano da sole, perché è una partita secca, una partita dove non c'era domani, esisteva l'oggi, e iniziamo un campionato molto difficile, molto lungo, dove sarà molto molto difficile ripetersi. Vabbè, sarà molto molto difficile ripetersi, lo dice, ma secondo me non lo pensa, perché a mio parere la Juventus ha dato un altro giro di pista. Adesso godiamoci questa. Godiamoci questa vittoria. Cosa sta dicendo ancora Conte? No, sentiamo Agnelli invece. Io sono un amante della squadra, quindi credo che la squadra abbia meritato un voto alto, ma sappiamo perfettamente che quest'anno sarà un anno difficilissimo. Usciamo da due scudetti, due supercoppe, quello che ci preme è di riuscire a centrare questo terzo scudetto che ci proietterebbe nella storia della Juventus, che è una storia importante. Una sola Juventus negli anni 30 ha vinto più di due scudetti di fila, quindi lì dobbiamo mantenere la nostra attenzione e concentrazione, perché sappiamo di poter dire la nostra, ma sappiamo altresì che sarà un anno difficilissimo. Vabbè, coperti allineati, fa parte del gioco. La vera domanda è quanto vale la Juve sul piano internazionale, perché sul fronte interno la Juventus, ripeto, secondo me non ha rivali. Allora, quanto vale invece l'Inter? Vi confesso che nel mio delirio televisivo del weekend, ieri ho preso una pausa sul gol di Jonathan, ho girato, ho visto il gol di Jonathan al Cittadella, ho spento tutto, per un'oretta ho staccato il filo, ho staccato la televisione, ho staccato anche il cervello, e poi ho ripreso con il moto mondiale. Insomma, non era un test attendibile, credibile, questo di Coppa Italia, secondo me, per l'Inter. Saluto e ringrazio invece il mister del Sassuolo neopromosso, Eusebio Di Francesco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Torino, Livorno, Verona e proprio l'Inter, questo l'avvio del Sassuolo neopromosso. Siete pronti per la falsa partenza? Due partite, poi di nuovo due settimane di stop, eccetera, eccetera? Beh, noi pensiamo partita dopo partita, non andiamo troppo oltre. Secondo me programmare una stagione giusta, però poi bisogna viverla settimana dopo settimana, perché ci sono tantissimi equilibri all'interno di una squadra. Importante è partire col piede giusto, anche per avere un ottimo impatto sulla categoria. Si dice che neopromosse debbano partire forte per forza, farete così anche voi? Ma non so quello che si dice, io guardo molto in casa mia, penso che noi dobbiamo partire prima di tutto per acquisire fiducia in quello sul lavoro che stiamo facendo, in particolar modo sui nuovi, nel stesso tempo anche tanti giocatori che magari non hanno fatto questa categoria, l'impatto mi ha visto dei più positivi. Senta, mister, mi faccio gli affari televisivi suoi, che cosa ha visto ieri in TV? Cosa ha visto in TV nel weekend? Che ha visto i miei figli a fare. Ha visto i suoi figli? Le 6 di mattina, perché la partita purtroppo non è. Aspetti Francesco, che faccio fatica a sentirla. Proviamo a ristabilire il collegamento con i cellulari che fanno i capricci. Tanto mi sembrava interessante, beato Di Francesco che ha visto i figli al mare, mentre noi abbiamo cominciato a imbottirci di pallone. Filippo Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamo perché ho sentito prima intervenire un sostenitore partenope, un tifoso napoletano, che sì, raccontava di subire queste offese continue in tutti gli stadi d'Italia. Io sono tifoso di Vicenza, la squadra in Serie C, quindi ormai non si scontra con Napoli da tempo. Però io vado allo stadio con i miei due figli ormai da tempo, da diversi anni. E ricordo che contro le partite con Napoli, Vicenza, noi siamo sempre in questa situazione. I tifosi napoletani sono gli unici che lanciano mortaretti, bombe carta, petardi verso i tifosi avversari. Non accade più da anni ormai, neanche con i tifosi veronesi o atalantini. Allora voglio dire, ognuno vede la realtà a modo proprio, naturalmente, e con la propria esperienza. Io posso dire, posso raccontare questo, ed è stata l'unica volta in cui anch'io mi sarei lasciato andare a degli insulti, chiamandoli razzisti, nei confronti della tifosa dell'avversaria, cosa che non faccio mai e che nel nostro stadio si fa magari meno che in altri stadi. Ecco, volevo raccontare questo episodio perché probabilmente ognuno la vede a modo proprio, la subisce a modo proprio. Sì, ma non so cosa risponderle, nel senso che mi sembra che la tifoseria napoletana sia grosso modo come meravigliosa, spesso sopra le righe, però mi sembra un discorso un po' perverso, no? Quelli lanciano i mortaretti, allora io gli dico Vesuvio brucia tutti i napoletani. Non mi sembra, ripeto, una cosa molto perversa. È tornato Eusebio Di Francesco, cui magari mi faccio dare una mano, essendo ex giocatore, uomo di calcio, ora allenatore emergente. Allora, sì. Mi racconti prima, non ho sentito bene la storia dei figli al mare, perché io in questo weekend mi sono massacrato di calcio, lei invece per fortuna è andato al mare. Dove? Non mi ricordo, non ho sentito. No, siccome abbiamo finito a Novara tardi, sono ripartito da Novara, che sono arrivato la mattina alle 5 e ho dedicato la giornata ai miei figli al mare a Pescara, di Pescara. Sì, certo, lo so. Quindi niente Ancelotti, niente Mourinho, niente Paris Saint-Germain, niente campionato tedesco, inglese o francese, niente Coppa Italia. Beato lei. Io ieri ho visto tutto. Ieri ho visto tutto, sono già esausto, e sono già esausto anche dopo questa puntata, nella quale sappiamo curva della Lazio chiusa per quanto è successo ieri sera, e adesso gli ascoltatori mi invitano a misurare e a pesare gli insulti, ed è uno sport che non mi rifiuto di praticare. Ma sicuramente non mi piacciono. Io facevo riferimento anche, parlavo proprio ieri del mal costume italiano del tifoso in generale. Che spesso anche a me non piace il fatto che si pensi poco a tifare proprio per la propria squadra, ma offendere l'altra, o perlomeno offendere anche o giocatore o allenatore della squadra avversaria. E questa è una cosa sicuramente che a me non piace personalmente, e la nostra cultura, però, se nessuno mai si espone e cerca un pochino di cambiarla, faremo fatica a migliorare, a crescere da questo punto di vista, se no facciamo solo del moralismo, certo, a se stesso. Certo, e siamo qui a pesare gli insulti. Meglio Vesuvio brucia tutti i napoletani o il bu al giocatore di colore? Ma le sembra una cosa credibile? Io dico ben venga, se c'è un pugno duro che valga per tutti, e giochiamo con le curve chiuse, chi se ne frega, ce ne faremo una ragione. Sì, no, è un peccato, a volte bisogna, d'altronde siamo abituati che per far capire, spesso io dico ai miei calciatori, per far capire bisogna punire e multare, se no non si educa. Sì. Come un po' con i figli. Sì. Quello. Gli si tocca nel portafoglio e forse capiscono, lo signori. Sì, sì, anche io ritengo che spesso bisogna arrivarci anche un po', bisogna avere anche un po' di amore, un po' di valori per certe cose, e allora deve venire un po' più dall'interno, però quando si riesce a non arrivarci, facendolo capire con le buone parole, è giusto prendere delle decisioni importanti. O con le buone o con le cattive. La Juve è di un altro pianeta? Attualmente sì. Anche non avevo me. Dubbi che vincesse ieri sera, ha faticato per il precampionato, ma era una squadra che ha caricato, che ha lavorato, che si preparava ad arrivare alla Supercoppa nel migliore dei modi. Quarta giornata, prima grande per voi, l'Inter, ma è grande davvero? Beh, sicuramente per tradizione sì, è una squadra in costruzione, ha cambiato quest'anno tantissimo, ha cambiato anche l'allenatore, anche la mentalità e il modo di giocare, però è una squadra di blasone importante, con un ottimo allenatore dal mio punto di vista. Sì, blasone che non fa punti, vediamo quanti ne fa questa Inter. Il Napoli mi piace, la Fiorentina pure, ma non è da titolo, La Roma mi sembra che è stata sua per molti anni da giocatore, mi sembra un gran casino, anche se è una squadra di talento e di valore, ma è un bazar aperto. Il Milan non è da corsa per lo scudetto, questa è la mia idea. Beh, metto sempre davanti la Juve, questo sicuramente l'ho detto prima. Certo. Però il Milan mi piace il fatto che sia lavorato con tanti giovani, anche rischiando qualcosina, perché è pur sempre una squadra che negli anni si vede che non ha investito tantissimo. Poi un po' mi viene da ridere perché leggo tutti i giornali, tutti i giorni, di quest'onda che deve arrivare dal il giapponese, che è un ottimo giocatore, per far capire quanto è diventato il mercato del Milan inferiore rispetto alle aspettative degli anni precedenti. Ah certo, ma io condivido in pieno, anche a me viene da ridere, le confesso. Siamo qui ad aspettare il giapponese e a contare gli spiccioli. Allora serve un euro in più e arriva, un euro in meno non arriva perché il CSKA si mette di traverso. Insomma, il Milan un tempo andava, prendeva, tornava a casa e presentava i giocatori. Adesso è un'altra storia. Bisogna anche dire che è giusto guardare anche i conti, avere dei bilanci sani, magari si è sbagliato in passato ed è giusto che si cerchi in questo momento di rimediare. La Roma? Mi dice qualcosa sulla Roma? Giovani di grande qualità. Quelli che restano. Che poi vanno amalgamati, vanno messi insieme. Conosco poco il mister Garcia, ma da quello che sento, da quello che anche ritiene i ragazzi, sembra che stia entrando in migliori modi nella testa dei giocatori. E a Roma è molto importante entrare nella testa. E lei lo sa bene. Ha giocato lì per molti anni. Grazie, in bocca al lupo. Grazie mister, grazie, buon campionato. Eusebio di Francesco Strade, poi Bruno da Bergamo, 800 24 00 24, numero verde. Possiamo dire vinciamo lo scudetto, lottiamo per l'importante è lottare, l'importante è crederci. Tutti convocati. A leggere certi messaggi c'è da provare vergogna per chi li scrive, eh. Ma ammetta che i napoletani sparano tutto spiano sul Terroni, questo è tutto. Vedete un po' voi come siamo ridotti? Oppure Vicentino mangia gatti, Eraldo da Napoli, stai parlando di una finale di Coppa del 97. Ma per favore ragazzi, fate i bravi, tenetevi per voi queste idiozie. Non scrivetele neanche. C'è chi invece è messo più o meno come me dopo questo weekend, chi ha visto 3 partite di rugby, mondiali di atletica, tennis a Cincinnati, Manchester United, Chelsea, Bayern, Borussia Dortmund, Barcellona, Real Madrid e a tratti Supercoppa. Chissà se è ancora vivo questo, chissà come sta questo ascoltatore. 800 24 00 24, Bruno Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolta, io volevo dirti semplicemente una cosa. Bella trasmissione, l'ascolto spesso anche durante la notte la replica. Sì. Il mio pensiero è messo in questo modo. Oggi come oggi purtroppo il calcio, come le moto, come tantissimi sport, basano tutto sui soldi. E proprio perché i soldi la fanno da padrona, veniamo tartassati per sostenere determinati sport e paghiamo determinati giocatori, piloti, autisti, nuotatori o quanto è, troppo. Ma perché questo plurale, Bruno? Noi paghiamo? Eh? Noi? Sì, tutti, perché io so che dalle mie tasse, no? Dalle mie tasse, se vado a spulciare, sicuramente una percentuale che può essere dell'1% come del 20% va poi a alimentare lo stipendio o quant'altro di queste persone. Vado a comprare un paio di scarpe, sì. No? Vado a comprare un paio di scarpe, benissimo, le compro della marca A, costano 20 euro, compro della marca B, ne costano 70. Perché costano 70? Perché parte di questi soldi, è vero, vanno anche al giocatore, ma parte di questi soldi vengono prelevati dallo Stato per sostenere altre cose. Ma comunque il discorso di fondo è, vogliamo fare una cosa fatta bene, bisognerebbe essere liberi di decidere quanto versare per ogni singolo sport. A me piace il calcio, ho un budget di 100 euro e adesso sul calcio. Mi piace versarmi per la MotoGP, mi verso sulla MotoGP. Sì. Non mi piace versare nulla, perché non mi piace nulla. Non verso nulla, perché devo versare una quota che poi va ad alimentare determinate no, situazioni provano. No, io mi sono perso, chiedo scusa. Mi sembra un discorso molto magmatico. Io non penso di pagare lo stipendio di nessun giocatore. Se compro le scarpe della marca A o della marca B, vabbè, è una mia libera scelta, e quindi prendo le scarpe che voglio. Se le mette Bolt, le mette Messi o le mette chi volete voi, saranno fatti miei che le compro, perché per spirito di emulazione o perché mi piace quel logo, quel simbolo, insomma. Io non credo di contribuire a nulla, se non ovviamente i soldi per la Pay TV, ma anche questa è una libera scelta. Allora potremmo dire che calciatori pagano le tasse, guadagnano molto, quindi pagano, questo sempre in teoria o spero in pratica, pagano più tasse, quindi contribuiscono in maniera maggiore, e vabbè, facciamocene una ragione. Secondo me nello sport valgono le leggi del mercato, quindi io non riesco a scandalizzarmi di fronte e a fare discorsi pieni di qualunquismo di fronte agli stipendi degli sportivi, perché, ripeto, valgono in questo caso le leggi del mercato. I giocatori sono, gli sportivi in generale, sono dei lavoratori infungibili, sono loro quindi che, ed è questo sistema che detta gli stipendi e gli ingaggi. Poi noi siamo abituati a guardare il nostro orto, quindi quanto guadagna il calciatore, quanto guadagna il nuotatore, poco, perché abbiamo sentito la polemica da Pellegrini, 3.000 euro per quegli ori, non mi dite che sono tanta roba, ma anche questo, sorvoliamo anche su questo. Io guardo lo sport in maniera un po' più globale e vedo quanto guadagnano i giocatori di football americano, di basket NBA, i giocatori di hockey delle NHL, insomma, quanto guadagnano i giocatori in Russia o in Inghilterra, insomma, sono altri paesi, altri mercati. Noi non possiamo permetterci quello che i salari che certi magnati ora elargiscono ai giocatori, e tant'è, insomma. Secondo me, ripeto, valgono le leggi del mercato, quindi non mi scandalizzo neanche di fronte quando leggo lo stipendio di Brad Pitt o di altri attori. Sono a loro modo degli artisti, quindi va bene così, secondo me, magari è un discorso impopolare, specie in questo momento. Vorrei continuare a parlare, a dare un'altra pennellata sui mondiali di atletica prima di chiudere con gli ascoltatori. Perciò saluto e ringrazio Alberto Cova, grandissimo, che ha commentato, tra l'altro, sullo sport, i mondiali di Mosca. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Dicono che Bolt sia sempre strepitoso, ma sia diventato triste, non so perché. Qualcuno lo pensa? Non lo so, io non l'ho visto tanto triste. Io neanche. Però io ho visto solo le gare, quindi il dietro le quinte non lo conosco, e ascolto chi invece magari conosce meglio queste situazioni. Però non te l'aspettavi neanche tu su quei tempi, te lo aspettavi vincitore, ma non su quei tempi. Ma noi siamo sempre lì in attesa del record del mondo, dobbiamo renderci conto che non tutti i giorni è possibile fare il record del mondo, e nemmeno che nelle grandi occasioni ci sia sempre il record del mondo. Gli atleti, man mano che passa anche il tempo, perché non dimentichiamoci che passa anche per Bolt il tempo, si preparano, e la cosa più importante, fondamentale, è quella di vincere il campionato del mondo o l'Olimpiade. Prima di ottenere un record del mondo, e quindi l'organizzazione e la pianificazione della loro stagione è in funzione di quello. Io credo che Bolt non solo si sia preparato bene e oculatamente senza fare errori quest'anno, abbia corso invece molto forte, perché 19,66 e 9,76, se non sbaglio, sono due ottimi tempi. È chiaro che se ci aspettiamo che faccia il record del mondo, possiamo dire è più triste. No, tra le medaglie d'oro mi sembra che possa essere tranquillamente contento e felice. Come no, antidepressivo migliore che esiste. Sì, no, saranno più tristi gli altri. Esatto, no, ma poi insomma sappiamo che appunto Olimpiadi e Mondiali l'importante è vincerli, poi i tempi e i temponi magari si fanno in altre situazioni, in altre circostanze, magari non a Mosca. A proposito, prima abbiamo parlato con Nicola Roggero che criticava l'assegnazione del Mondiale a Mosca, dove non c'è grande passione per l'atletica, dove ci sono anche problemi di altra natura, dove il clima non consente, questo è un altro fattore, magari certe prestazioni. Tu cosa ne pensi? Beh, io penso che bisogna entrare nella testa dei dirigenti, entrare nelle logiche di assegnazione delle gare mondiali. Tutti sanno che a Mosca in questo periodo ci sono sempre meno di 25 gradi con pochissima umidità. Quest'anno ha fatto caldo dappertutto, ha fatto caldo anche a Mosca, però se guardiamo le prestazioni degli atleti non sono state inferiori per il caldo, per l'ambiente o perché ci siano pochi spettatori. La cosa bella dell'atletica e credo dello sport in generale è che gli atleti si preparano, quella è l'occasione, a quell'ora, in quel momento devi andare a vincere il mondiale, loro sono pronti. È chiaro che ai russi non piace svegliarsi presto la mattina e andare a vedere le qualificazioni, però la sera tutto sommato in uno stadio da 80.000 persone hanno tenuto una media da 60.000, quindi voglio dire la gente a vedere le gare c'era. Certo, forse non è Helsinki, forse non è la Germania dove o altre località sì, dove hanno fatto lo stadio pieno anche la mattina, però insomma tutto sommato non è stato un flop, un flop così enorme. Poi io come dico osservo, bisognerebbe andare a vedere il comitato organizzatore se è soddisfatto, non è soddisfatto, se i biglietti sono stati venduti, se gli incassi hanno portato i risultati che si aspettavano, insomma sì, tanti discorsi che poi a noi riguardano fino a un certo punto. Sì, molto relativamente. Alberto, per chiudere, è stata tuo territorio di caccia, nel veder correre Mo Farah, quali emozioni provi personalmente? Mo Farah è un grande, Mo Farah mi ricorda tante cose, ma non solo da atleta. Mo Farah credo che sia forse l'unico mezzofondista, uno dei pochissimi mezzofondisti che riescono a contrastare l'onda nera africana, ma soprattutto è un atleta che si organizza, si prepara, sa quello che vuole, non corre a destra e a manca alla ricerca dei grandi guadagni, ma si prepara per vincere e doppiare la vittoria nelle grandi manifestazioni, perché sa che comunque dopo aver vinto avrà anche i grandi guadagni. Quindi persona, atleta che tra l'altro poi ha fatto una scelta che a me piace tantissimo, perché l'avevo fatta anch'io ai miei tempi, di andare ad allenarsi a Eugene e di raccogliere l'esperienza di un grande atleta dei miei tempi, Alberto Salazar, che ha costruito un gruppo di mezzofondisti che oggi è ad altissimo livello. Mo Farah è l'apice di questo lavoro, quindi cosa dire, è un po' l'atletica che ho fatto io a quei tempi, e non solo io ma anche tanti colleghi che l'hanno fatto con me negli anni 80, e che è sempre il percorso che produce poi i risultati, sempre chiaramente avendo i talenti, però intanto è l'unico percorso che intanto la strada, la strada è quella, e la parola giusta è emozione anche per te. Grazie Alberto Cova, alla prossima. Grazie Vittorio. Grazie. Da Napoli. Vittorio, pronto? Eccomi. Sono io. Dica. Niente, no, io vabbè, dovevo fare un certo discorso, però sul fatto che, su quello che aveva detto il giornalista all'inizio della trasmissione, cioè che ai tifosi italiani piace seguire il calcio con tutte le polemiche, le discussioni, no? E pronto? Sì. No, io credo che il problema non è che ai tifosi piace, è che purtroppo, cioè, il calcio italiano, la struttura del calcio italiano come è fatto, si presta a queste considerazioni. Ma qui io non credo sia Vittorio, torniamo magari a parlare un altro giorno, perché siamo in chiusura e devo dire che oggi non mi dispiace, non credo che sia una questione di strutture, credo sia una questione più che altro di mentalità. Grazie a tutti, Fabio Cantadori in regia, Giorgio Locatore di questo programma, ci sentiamo domani alle 2, ciao.